Guten Abend from the Giro. Buonasera dal Giro, sono Ettore Giovannelli. Ascoltate questa prossima puntata di Gironimo, vi divertirete. Amiche e amici del riposo, dell'ozio, del relax, del sonno che comunque non è mai abbastanza, benvenuti alla puntata extra. È una puntata extra. Boh, sì. In ogni caso ho perso il conto del numero di puntate che abbiamo fatto fin qui, per cui possiamo iniziare a chiamarle così. Puntata extra di Gironimo. Avete già sentito mormorare Leonardo Piccione che è seduto di fronte a me. Prima ancora di noi, però, avete sentito il grande Ettore Giovannelli, che sarà uno degli ospiti di questa puntata. Comunque sì, io sono Leonardo Piccione. Io sono Filippo Cautz, nessuno di noi può ambire a essere Ettore Giovannelli, ma ci proviamo a raccontarvi il Giro d'Italia. Lo facciamo a Gironimo, che è il podcast di Al Vento, realizzato con le voci, soltanto due quest'oggi, di Bidon, perché, diciamolo subito, siamo all'hotel E-Point di... Come si chiama? San Giovanni in Persiceto. San Giovanni in Persiceto. Ci venne nel precedente millennio. Si fecero le prime convention italiane dei saltimbanchi a San Giovanni in Persiceto. Sì? Motivo per cui avevo già frequentato questo luogo. Tra l'altro, è la città natale di Marco Belinelli, esatto. Campione di pallacanestro, che per oggi che è impegnato oggi gioca, in una partita gioca, di playoff. Forse finale, credo. Addirittura. Addirittura, siamo già alle finali. Non siamo così ferrati. Stanza numero 203, 203, 207. 203 questa, sì, sì. Come perdo il numero delle puntate, non ricordo mai il numero delle stanze e gli alberghi, e da quando ci sono queste chiavi fatte a tesserina non c'è scritto sopra, per cui è sempre difficilissimo. Ad ogni modo, le cornucopie non ci sono, ma le troveremo. Non c'è Michele Pelacci perché siamo vicini a casa e giustamente è andato a godersi il suo giorno di riposo. Il suo letto e il suo prosciutto crudo e tutto il suo fratello, resto, aveva voglia di vedere suo fratello, che salutiamolo, Filippo Pelacci. Certo. E noi invece siamo qua, dovevamo riposarci, abbiamo lavorato tutto il giorno, sì, anche oggi. Sì, ci deve essere una regola per la quale ci si sveglia prima nei giorni di riposo. Io stamattina alle 7 ero già sveglio e... Però va bene, abbiamo trasformato questa giornata in un'altra giornata. Anche perché, cari albergatori d'Italia, sappiamo che tutti ci ascoltate, che senso ha mettere la colazione fino alle 9.30? C'è bene, gente che dorme, non ci si sveglia mai prima delle 10 del mattino, è immorale. Noi ci siamo svegliati prima, per fare colazione in tempo e anche perché, insomma, questa serata di ieri e nottata doveva essere tranquilla. Finita la prima parte di Giro d'Italia, si riposa, alle 10 pubblichiamo la nostra ultima puntata, alle 10:15, sbabam. La notizia che ha fatto sembrare immediatamente vecchia e inutile la puntata di ieri del nostro podcast. E forse anche la nostra vita. No, la nostra vita spero continui ad avere un senso, anche il Giro continua ad avere un senso, però è chiaro che sono cambiate molte cose, sembrano passati veramente secoli rispetto alla fine della cronometro di ieri. Adesso ci stavo pensando mentre, prima di cominciare a registrare, sembra un'altra... L'anno scorso, tipo, che Remco Evenepoel era in maglia rosa, invece era solo qualche ora fa. In teoria lui è ancora in testa alle classifiche, finché domani mattina non vedremo Geraint Thomas indossarla. Non so se la indosserà o meno Geraint Thomas. Allora dipende se... questa cosa era già venuta fuori l'anno scorso col protocollo Covid, che però era diverso perché il protocollo Covid comportava la sospensione, l'espulsione, insomma, dalla corsa. In questo caso, secondo me, dipende da se la squadra ha già comunicato alla giuria il ritiro, perché se no, finché lui non si presenta al via, in teoria dovrebbe essere in testa alla classifica. Io immagino che vedremo in testa invece Geraint Thomas. Sì, Geraint Thomas, che a questo punto è il leader della classifica generale cortissima, già lo era con Remco in maglia rosa, adesso ancora di più perché Thomas ha soltanto 2 secondi di vantaggio sul Primoz Roglic, 5 sul suo compagno di squadra Theo Gegenhardt e poi 22 sulla coppia, la strana coppia formata da João Almeida e Andreas Leknessund. Strana, comunque strana. Beh sì, abbastanza strana. Un portoghese e un norvegese, quarto e quinto in classifica generale al Giro d'Italia. Geraint Thomas, che tutti chiamano Geranio per italianizzarlo, ma ci ha segnalato il nostro ascoltatore Giacomo che la traduzione italiana di Geraint sarebbe calogero. Ah sì? Anzi, ce l'ho andato a vedere su Wikipedia, fonte non proprio... La Geraint in italiano è Geronzio, che già è bellissimo. Da cui derivano Calogero, non so per quali strade, ah, da Geronzio. Geronzio è il progenitore di Calogero. Comunque da lì derivano Calogero e soprattutto Gerasimo. Gerasimo. Che forse è il modo in cui dovremmo chiamare d'ora in poi. Gerasimo Tommaso. Oppure potrebbe essere il nome del prossimo podcast. Girosimo. Se si candida, se vince il giro, l'anno prossimo il podcast lo chiamiamo Gerasimo. Frank Venepool torna a casa, non lo vedremo in maglia rosa, non lo vedremo in maglia iridata. E stavo facendo questo ragionamento che lancio ai nostri ascoltatori, che siccome può darsi che, adesso non so con questo stop la sua stagione cosa prevederà, i mondiali quest'anno sono molto prima perché sono inizio agosto, per cui subito dopo il tour, vorrei fare il conto di quanti giorni ha indossato la maglia iridata in gara Remco Evenepoel, perché pochini. Poi ha sempre avuto altre maglie anche nelle altre brevi corse a tappe che ha corso, per cui però si è vinto una Liegi comunque in maglia ridata, per cui buttalo via. Poco non è, a me dispiace molto, l'ho detto dal primo giorno, forse non era il mio favorito per vincere questo giro, ancora di più dopo la crono di ieri penso che avrebbe fatto molta fatica a vincerlo, però un giro senza Remco Evenepoel è un giro che ha perso tanto da tutti i punti di vista, lo spettacolo, il prestigio, la storia, no? La narrazione di questo giro senza un protagonista così importante perde qualcosa, non perde tutto, come poi ascolterete nelle chiacchierate che abbiamo fatto oggi, perché il giro continua, però ecco, c'è un pezzo importante in meno in questo Giro d'Italia, che sia simpatico o antipatico, Remco aggiunge quando c'è. Sì, mancherà molto a noi, mancherà al giro, mancherà al pubblico in strada e non, che speriamo comunque continui a seguire il giro con la stessa passione e continui a seguire soprattutto Gironimo con la stessa passione. Assolutamente. C'è questo, come dire, poi concludiamo questa piccola discussione, questo controsenso, perché nella società, nel mondo, sembra che il Covid sia un ricordo del passato che caratterizzi solo lateralmente le vite delle persone, mentre nel ciclismo, nel Giro d'Italia 2023, sembra ancora dominare e avere questa spada di Damocle sulla testa, asterisco questo di Damocle, asterisco ricordiamo. Di Damocle sulla, come dire, sulla classifica generale e sull'ordine di partenza di ogni tappa. È strana, è una situazione molto strana, molto difficile. Sulla vita di tutti i giorni, perché poi oggi ci ha scritto la direzione di corsa che da domani bisognerà ricominciare a indossare le mascherine quando si va a parlare con i corridori. Io pensavo, frequentando talvolta le strutture sanitarie, che recentemente sono state abolite l'obbligo di mascherina anche all'interno delle strutture sanitarie, e invece al Giro d'Italia torna. È forse veramente il baluardo del Covid, il Giro d'Italia. Eh sì, purtroppo sembra che sia così. Ci sono tante ragioni, ovviamente, di cui non parleremo in questo podcast, anche serie e importanti, perché ripetiamo sempre, la salute dei corridori è la cosa che ci interessa di più, che spero interessi di più a tutti. E soprattutto, come diciamo sin dal 2020, il nostro mestiere non sappiamo quale sia, ma sicuramente non siamo dei virologi, né possiamo mischiarci a... Assolutamente, ci permettiamo soltanto a volte di commentare le scelte o di avanzare ipotesi su, come dire, scelte non semplici che fanno le squadre, come quella che ha fatto la Soudal ieri, comunicando con in quei tempi la positività al Covid di Remco Evenepoel. Ma di questo e di altro abbiamo parlato stamattina con uno dei nostri amici che voi conoscete o state imparando a conoscere, spero conosciate già perché è bravo, è un riferimento nel mondo dei podcast e del giornalismo ciclistico. È anche autore di un libro prossimamente in uscita per Mulattiere Editore nella collana Pagine al Vento. Sì, si tratta di Daniel Fribe del Cycling Podcast, abbiamo parlato con lui della notizia del giorno, ma anche in generale e nello specifico, non in generale, della coppia Ineos, che a questo punto è la squadra che veste la maglia rosa virtuale e che si candida a essere la squadra di riferimento, i due corridori di riferimento per la seconda parte del giro, Geraint Thomas e Theo Gegenhardt. L'unica intervista che facciamo in maniera telefonica, virtuale, nel web di questa puntata è l'intervista con la persona con cui parliamo più spesso tutti i giorni durante il Giro d'Italia, e sono i grandi misteri del giorno di riposo, però ci tenevamo, dopo una notte così convulsa, a parlare con Daniel Fribe del Cycling Podcast. Ciao Daniel, dove sei oggi? Ciao ragazzi, ma io sono, per una serie di motivi, io sono molto lontano dal Giro d'Italia, oggi sono a Pietrasanta in Toscana. Quindi 2 ore di macchina, mi sa che oggi non si faranno molte interviste, a meno che ti sei portato aiuti. Molto avanti, stai precedendo il giro. Sì, io sono praticamente già sulle Dolomiti, vi posso dare le previsioni per i prossimi giorni se volete. Senti Daniel, Dolomiti toscani, abbiamo visto intravedere le vette nelle Dolomiti toscane da qua. D'altronde abbiamo visto le Dolomiti Lucane, no, non le abbiamo viste, ma abbiamo sentito parlare delle Dolomiti Lucane qualche giorno fa, per cui ci sta anche proiettarci verso le Dolomiti Toscane con un protagonista del Giro in meno. Sì. E come è stata? Noi ieri eravamo tutti un po' così, non voglio dire arrabbiati, ma insomma un po' confusi dal fatto che avessimo pubblicato una puntata del podcast alle 10 e alle 10 e un quarto è uscita la notizia del ritiro di Remco Evenepoel, vanificando una parte, non tutto, ma una parte dei discorsi che avevamo appena pubblicato. Da voi com'è andata? Com'è andata questa nottata? Ma noi in realtà eravamo andati in onda un po' più presto, verso le 8 e mezza, quindi... Ma io non mi sono sentito in dovere di rifare il podcast, però avevo bene in mente che se stessi lavorando per la televisione, per esempio, il che faccio al Tour de France, mi avrebbero comunque mandato, non lo so, all'albergo, quindi ero grato, nel senso, e poi abbastanza rassegnato, nel senso che non potevamo aggiungere, o non volevamo a quell'ora, anche perché ci stavamo avviando verso la Toscana, era molto tardi, e poi che ci puoi fare. Però all'inizio, quando ho visto i tweet, come tutti gli altri, cioè, la prima reazione in questi casi ormai è quella di pensare che si tratta di uno scherzo. Però poi, come facciamo, credo, tutti, ho controllato bene l'indirizzo, cioè il conto Twitter, fatto lo spelling, sì, si tratta davvero di Remco Evenepoel, e poi sì, ho iniziato a digerire la notizia, e poi ovviamente sono iniziate tutte le speculazioni, le azioni del caso, la costernazione, tra la costernazione generale, chi si chiedeva ma non avrebbero potuto magari dargli un giorno per tentare di recuperare, e via dicendo. Tu che idea ti sei fatto, Daniel, su questo, sul modo con cui è stata comunicata questa notizia? Appunto, avrebbero potuto aspettare? Perché ha corso la cronometro ieri, se forse aveva già dei sintomi di Covid? Che idea ti sei fatto? Ma non lo so, cioè, più che altro mi stupisce un po'. Credo, non ho approfondito molto la questione, e poi tra l'altro non sono per niente preparato in questa materia, però mi stupisce la gestione, ovviamente, o pare che ci sia una gestione abbastanza variabile e diversa tra le varie squadre, nel senso, io ho sentito ieri, poi è arrivata anche la smentita, però io ho sentito ieri che Damiano Caruso, per esempio, è stato positivo al Covid per diversi giorni questa settimana, poi ieri per la prima volta è risultato negativo. Ciro Scognamio, il mio caro amico della Gazzetta dello Sport, gliel'ha chiesto e lui ha negato dopo, però sta di fatto che ci sono delle squadre, dei dottori, dei medici di squadre che la pensano in una maniera, e degli altri che la pensano in un'altra. Mi sembra di capire che comunque alla quick step fanno un controllo diritto alla fine di ogni settimana in una gara a tappe, e quindi Remco non era stato controllato prima di ieri sera, quindi non sappiamo se già si era contagiato prima. Cioè, voi cosa ne pensate voi? Bella domanda. Cosa ne pensiamo? Io ne penso solo che questo giro ne esce impoverito. Poi come sia andata questa vicenda in sé, non lo so, perché non ho parlato con nessuno della squadra. È evidente questo fatto che ogni squadra ha un suo protocollo, ed è problematico, perché peraltro adesso c'è nel nostro gruppo Telegram c'è un'infinita discussione che non sto riuscendo neanche a seguire con troppa attenzione, però è vero che un problema che emerge è il fatto che resta l'attenzione sulle conseguenze, per cui col tampone positivo torni a casa, ma si è persa invece buona parte dell'attenzione sulla prevenzione, per cui poche squadre girano con le mascherine, o poche, non lo so, però insomma non tutte le squadre girano con le mascherine le hanno ogni tanto addosso, ogni tanto no. Lo stesso Remco, come tutti gli altri, non perché Remco è un incosciente, ma come tutti gli altri, lo abbiamo visto tante volte senza, che ha stretto contatto con altre persone, anche esterne alla squadra, e altre volte con, per cui mi sembra una situazione molto vaga e confusa, è difficile anche solo farsi un'idea. Sì. Io, sì, secondo me, dico brevemente, a me resta qualche dubbio che magari verrà risolto anche nel corso della giornata, mentre noi ne parliamo, sul prima perché abbiano... pubblicheremo il podcast. Esatto. Prima... che abbiano un po' affrettato i tempi nella comunicazione, nel senso che potevano aspettare almeno qualche ora per rifare il test, per vedere come evolvevano questi sintomi. C'è un giorno di riposo oggi in mezzo, forse aveva senso dare del tempo alla notizia, no? Anche per comunicarla in modo più circostanziato, con più dettagli, anziché dire questo routine test effettuato dalla squadra, e soprattutto dal mio punto di vista capire come mai, nonostante lui avesse il naso chiuso o qualche segnale, insomma, già ce l'avesse prima del cronometro, abbiano comunque deciso di fargliela fare questo cronometro, col sospetto, col dubbio che potesse avere il Covid. Se si tiene la salute dei corridori, non gli si lascia correre e fare uno sforzo di questo tipo, anche soltanto col dubbio che forse ha il virus. No, questo a me resta il dubbio da questi due punti di vista. Sì, poi ripeto, non sono un esperto per niente nella materia, però abbiamo parlato anche tanto negli due o tre stagioni precedenti dei rischi potenziali, rischi cardiaci di questo virus, però pare, io ho avuto diverse conversazioni in questo giro e pare che i medici siano abbastanza d'accordo che si tratta ormai di una variante del virus che pone meno rischi da quel punto di vista, però effettivamente sono d'accordo. Però pensando adesso, spostando l'attenzione all'aspetto agonistico, ma c'è ovviamente chi dirà che ne esce un Giro d'Italia con l'asterisco ormai, però io mi dico che se rifletti a tutti, ma praticamente tutti i grandi giri hanno l'asterisco in qualche modo, c'è sempre un corridore, uno di classifica che cade o che non si presenta alla partenza perché è infortunato, e mi dico anche che ci lascia, ma ovviamente tre protagonisti, tre favoriti ormai che sembrano essere superiori agli altri, cioè Tao, Thomas e Roglic. Nel caso di Roglic e di Thomas comunque si tratta di due corridori che hanno avuto tantissima sfiga, tantissima sfortuna nella carriera, in un certo senso meriterebbero, cioè, un colpo di culo. soprattutto nel caso di Roglic, l'ultimo grande giro che ha corso è stata la Vuelta dell'anno scorso, e è capitata praticamente la situazione contraria, inversa, no? Che... Sì, è vero. Sì, e poi secondo me lui ha lasciato, io ci ho pensato tante volte, l'impronta che lui ha lasciato su questa generazione, su quest'epoca, meriterebbe un altro, cioè direi che l'impronta dovrebbe essere un po' più grande di quella che è in questo momento. Tre grandi giri, sì, tre vuelte, però meriterebbe per tutte quelle altre gare che ha vinto. Cioè, i giorni, io cito sempre questa statistica che in ogni grande giro dal 2018, a parte il Tour de France, ha sempre vestito la maglia di leader. È stato un corridore spettacolare, quindi se dovesse vincere questo giro senza Remco, non toglierebbe molto, secondo me, alla vittoria. Insomma, non resta solo Roglic, restano dei rivali in questo Giro d'Italia, e c'è una Ineos che in questo momento si trova in una situazione estremamente favorevole, con due corridori tra i primi tre, e due corridori che abbiamo visto ieri in che condizioni stanno. Tu come li vedi gli Ineos in questo momento, soprattutto questo potenziale dualismo, che non sappiamo nemmeno se ci sia un dualismo davvero o no con questi due possibili capitani? Ma è una delle Ineos, o delle se parliamo anche della storia della squadra, cioè della Sky, è una delle squadre più forti degli ultimi anni che hanno portato una gara a tappe, perché anche per via di Sivakov, di Yaritsman, di De Plus, che sono fortissimi soprattutto in montagna, sì, hanno perso Ganna, però Ganna credo che il lavoro più importante di Ganna l'aveva già compiuto, no? Nella prima parte della gara, quindi sono fortissimi, e d'altro canto hai, o dall'altra parte hai la Jumbo che sì, sta migliorando, non ha perso nessun corridore finora, però c'è un ragazzo come Thomas Glogg che non avrebbero mai pensato di mandare a un Giro d'Italia se non ci fossero stati tutti quei problemi della vigilia, diciamo. Quindi sì, diventa molto stuzzichevole, diventa molto intrigante tutto. E poi il dualismo tra Tao e Geraint è un corridore, un ragazzo, un uomo che abbiamo visto anche nel passato, non crea mai conflitti. Molte volte è andato al Tour de France come leader o co-leader o seconda punta e non ha mai creato casini, quindi non lo farà neanche in questo caso. Il discorso di Tao forse è un po' diverso perché hai detto Filippo che è uno che comunica bene, però ha una personalità molto più complessa che non, secondo me non l'abbiamo capita fino in fondo, anche perché lui vive da due anni ormai, quasi tre anni, con questa pressione, questo fardello un po' della vittoria al Giro d'Italia che li ha, secondo me, creato un po' di problemi, perché si è creata un'aspettativa che era molto difficile da sostenere. Come ne è uscito lui da questa difficoltà? Perché è evidente che ora ha risolto buona parte dei suoi problemi, perché è arrivato al Giro in condizioni ottime, forse sì, migliori addirittura del 2020. Ma ne è uscito nel senso che il fatto di restare all'Ineo, se lui avrebbe potuto partire, però ha rinnovato il contratto, non mi ricordo quando, però forse alla fine di quella stagione, quando ha vinto il Giro d'Italia, ha deciso di restare. Si è ritrovato ad essere in un certo senso superato nella gerarchia, o comunque non gli hanno dato il ruolo, i gradi che li avrebbero aspettato come, intanto vincitore di un grande giro, quindi si è spesso ritrovato a fare il gregario, seconda, terza punta, il che forse gli ha un po' dispiaciuto, forse l'ha un po' frustrato, però in un certo senso col passare delle stagioni, stiamo parlando ora di tre stagioni fa che ha vinto il Giro d'Italia, magari gli ha sollevato un po' di pressione alla fine. All'inizio di quest'anno nessuno parla di Tao come potenziale capitano dell'Ineos, né al Giro, non credo almeno, né al Giro né al Tour, però in squadra loro hanno sempre saputo che questo era un ragazzo con i numeri, con le potenzialità per quel ruolo, quella dimensione, è uno che dovrebbe essere competitivo con i Roglic, non dico i Vingegaard e i Pogacar, però quello che stiamo vedendo in questo momento è il suo livello fisiologico, credo. Bene, Daniel, un'ultima domanda. Io mi sono esposto, ho detto che secondo me dopo ieri Theo Gegenhardt è il favorito per vincere il Giro. Secondo te adesso, dopo tutto quello che è successo tra la cronometro e i fatti dopo la cronometro, chi è il tuo favorito adesso per vincere il Giro? Ma io dico Roglic non perché intellettualmente mi sembra la conclusione più logica, però come ho accennato alla sfortuna che lo ha accompagnato per tanti anni, quasi per una questione di giustizia divina, io ripeto, un corridore che ci ha divertito, ma divertito forse non tutti sarebbero d'accordo, però che ha lasciato questa impronta su questa epoca del ciclismo merita un altro grande giro che non è la Vuelta, il suo palmarès. Quindi tu credi nella giustizia divina? Non in questo caso, in questo caso sì, in questo caso okay. Mi piacerebbe pensare che ce ne sia un po', però varrebbe anche nel caso di Thomas, sinceramente. Non è, forse per preferenza personale, non è il tipo di corridore che mi piace, di cui vado matto, perché sostanzialmente è un cronoman che col passare degli anni ha imparato ad andare molto forte in salita, però è innegabile anche che è un personaggio, un ragazzo a cui non si può non voler bene, quindi varrebbe anche nel suo caso, lo merita. Sono d'accordo con te. Adesso ti lasciamo andare perché siamo al limite del tuo orario per il cappuccino. Se vuoi prenderne un altro, siamo già oltre, forse. Ne ho già preso uno e poi sono... Ma io di solito diritto prendo un cappuccio e poi come dolce un caffè, sì, un espresso. Quindi ho appena... Ah, questa è la tua regola, ok. Sì. Daniel, comunque guarda che è anche già l'ora per bere del vino e sei anche in un posto buono. Ah sì? Sì, dopo le 10:30 non è più alcolismo. va bene, ce lo dite voi. Ci vediamo domani allora. Sì, a domani Daniel, grazie. Grazie, ciao. Grazie mille, ciao. Buon riposo. Allora, apriamoci anche noi, visto che sono passate da tempo le 10:30. Ah, che difficoltà questa linguetta. Una bella lattina delle birre di Alvento, ne abbiamo ancora, incredibilmente, sono arrivate, hanno superato il primo giorno di riposo e ne abbiamo ancora un po', e ce le berremo e lanciamoci invece in retrospettiva con le nostre interviste. Sì, perché la puntata di oggi l'avevamo pensata un po' diversamente, abbiamo dovuto ripensarla dopo la notizia del Covid di Remco. Mi sa che non siamo stati gli ultimi, gli unici non di sicuro. Avevamo pensato di parlare dei favoriti di questo Giro d'Italia con giornalisti dei loro paesi di provenienza, quindi con un giornalista belga, con uno sloveno e con un portoghese, perché poi c'è sempre anche João Almeida. Lo stiamo considerando un po' poco in questo podcast quest'anno, secondo me dalla settimana prossima ne parleremo di più. Stiamo dicendo che questo portoghese si è imbucato? Si è un po'... sta facendo il portoghese João Almeida. Può darsi, ma vi facciamo ascoltare comunque le interviste che avevamo fatto, due di queste. Quelle al giornalista belga che si chiama Renat di Sport, che è chiaramente l'inviato di Sport di VRT, la televisione nazionale belga di lingua nederlandese, e poi quella con David Cermeli, non credo di averlo pronunciato bene, ma comunque è l'inviato della TV slovena, che avevamo registrato prima ovviamente di quello che è successo, poi della notizia che è arrivata in serata. Ve le proponiamo comunque perché ci fanno conoscere meglio Remco, e Remco ci farà compagnia non in questo giro, ma sicuramente in tanti momenti. Nella vita. In molti anni del ciclismo che forse seguiremo. E nel poi, giro, nella tappa, nella vita. È vero. E poi conosciamo qualcosa in più su Roglic, su come è cambiato in realtà Roglic negli ultimi anni secondo David e come la Slovenia sta vivendo questo Giro d'Italia. E infine poi abbiamo un contributo da parte del nostro amico Gonzalo Moreira, che se ci avete seguito negli anni scorsi ricorderete, lui è il commentatore di Eurosport Portogallo e per la prima volta ci parla di João Almeida in italiano. Le altre volte l'aveva fatto in inglese, questa volta si è cimentato con l'italiano. Questo suo contributo è di oggi, quindi è un aggiornamento della sua previsione sul Giro 2023 da parte di João Almeida dopo il ritiro di Remco Evenepoel. Li ascoltiamo uno dopo l'altro e dopo torniamo. Renat, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto al nostro podcast Gironimo. Sei appena uscito dalle interviste con Remco Evenepoel dopo la cronometro. Sì, sono momenti speciali. Un belga che ha vinto un cronometro di nuovo e la sua giornata 4 in maglia rossa, allora per noi è veramente davvero speciale. Senti, è un giro speciale questo in Belgio, con un corridore come Remco, dopo tanti anni che non c'è un corridore che punta a vincere il Giro d'Italia, e c'è qualcosa di diverso, siete in tanti, come la state vivendo voi giornalisti belgi qui e in Belgio, come sono le reazioni? ci si sono più giornalisti da Belgio qui che gli altri anni, penso una quindicina, allora che in giri normale ci sono due, tre, allora 15 è già qualcosa, e le gente in Belgio sono entusiasmato e sono captivato, si dice in italiano? No, ma si capisce. sì, per la corsa, perché ci sono tanti anni che un belga ha fatto bene nel giro, non mi ricordo, perché quando Johan de Munck ha vinto io ho avuto 10 anni, allora ci sono tanti tempi passato, e questo è veramente per me anche, ho fatto tanti giri d'Italia per la telecronaca, per il servizio pubblico in Belgio, e questo, ok, abbiamo perso i diritti, ma questo mi dà più di soddisfazione di essere qui con la storia di Remco, che è una grande storia, sì. Lo vedi tranquillo, Remco? Ma sì, molto tranquillo. Molto. Sì. Sì, l'ho seguito tanti anni dall'inizio della sua carriera. Poi pochi anni. Sì, ma è vero, ma mi sembra già un'epoca di 10 anni, tanti corsi, tante emozioni. Lui c'è un'evoluzione grande. Dopo, all'inizio della sua carriera, era nervoso, new kid on the block, con la voglia di dimostrare che lui è un talento, un campione nel futuro. Allora c'è tanta ambizione in questa corpo. Allora il momento, lui è veramente pianissimo, possiamo dire, perché dopo la caduta di Lombardia lui ha cambiato. La caduta di Lombardia è, purtroppo è strano da dire, ma la caduta l'ha cambiato in un senso positivo, perché ha avuto molto tempo di pensare, di leggere cose, e ha fatto un'evoluzione mentale che le rende più forte oggi. Che cosa ha letto, per esempio? Hai letto qualcosa in questo periodo? Sì. Che tipo di letture ha fatto? Libri su mindfulness, libri su altri campioni, cose differenti. Non penso che lui è un grande amatore di libri, ma l'ha fatto quando era nel suo letto dopo la Lombardia. Allora è anche intelligente di fare così, può anche guardare solo Netflix, ma ha fatto altra cosa. Io ho comunque l'impressione che lui sia ancora un po' vittima, sia dentro un personaggio che è stato costruito forse in Belgio intorno a lui. Cosa c'è di autentico in Remco quando lui parla, quando si esprime, e cosa invece è il personaggio mediatico che lui deve essere in Belgio? Il personaggio mediatico è diverso dal Remco vero, perché ci sono gente che dicono che Remco è una persona con arroganza, ma secondo me non è vero. Lui è un corridore giovane con ambizione grande, e lui sa che c'è il potenziale, e questo può sembrare un po' di arroganza, ma secondo me è la voglia di vincere, è altra cosa. E penso che ho parlato tanti con la sua padre, his dad, penso che lui è un ragazzo veramente simpatico, con empatia per altri genti, sicuro, sono sicuro di questo, ma nelle media lui, ci sono momenti quando lui dice cose così, esatto. Senza pensare. Quello non è il vero Remco, quando fa queste cose un po' senza pensare, di istintive. Ma penso che lui ha la spontaneità, e questa spontaneità è anche un po', è giovane, questo è bene, perché è mai boring, noioso. No, dunque da Chievel, grazie mille. Ok, vediamo subito se abbiamo imparato a pronunciarlo. Siamo con David Chermel, più o meno. Sì, è più o meno David Chermel, inviato di RTV Slovenia, nazionale, televisione nazionale slovena. Tuo primo Giro d'Italia? No. Primo, non so quando era, però penso che quando Luca Mesguez ha vinto in Trieste. Penso okay. che era quello il primo, penso, non sono sicuro. E sei l'unico inviato sloveno in questo Giro d'Italia? Quanti siete? No, sono l'unico dalla televisione, però ci sono sempre almeno due ragazzi ancora di radio, di non televisione, però di radio nazionale sloveno. Così almeno questo. E poi dopo gli altri media c'erano qua tre nella partenza. Adesso non vedo nessuno, però penso che quando il giro arriva vicino a Slovenia ci saranno tanti. E poi penso che ne arriveranno di più se Primož Roglič sarà in maglia rosa. C'è attenzione in Slovenia su questo giro? C'è attesa? C'è seguito? Non so, sai, sono qua per adesso, però penso che sì, proprio non è proprio, diciamo così, bene, perché in Slovenia non abbiamo le immagini in diretta. Non c'è nessun canale in Slovenia che trasmette il giro? C'è uno che ha solo gli highlights, però non c'è nessuno che trasmetta il giro. Il tuo lavoro in cosa consiste? Quindi tu dopo la tappa fai un servizio e lo viene trasmesso quando? Durante il telegiornale, in un programma sportivo? Durante il telegiornale, nel programma sportivo, diciamo così, per questo minuto e mezzo, due minuti di video, con, diciamo così, fai l'intervista, speri che lo fai ogni giorno con Primož, che è l'unico sloveno adesso che Jan Tratnik ha caduto. No, questo è ogni giorno. E allora tu che segui Primož tutti i giorni e immagino anche da qualche anno, come lo vedi in questi primi giorni di ormai quasi metà Giro d'Italia? Remco dice che Primož è nervoso, è vero che è nervoso? Non so cosa pensi tu, io penso che non è nervoso, più o meno non vedo che è nervoso. Penso che corre molto bene, molto molto bene, anche sulla tappa di Gran Sasso, sai, se c'era il vento contrario lui era prima ho detto oh, perché è così lontano, sai, dietro, sai, però va bene così se il vento contrario, così posso dire che corre molto bene. Anche 4 anni fa lui sa che cosa è successo nell'ultima settimana, e così spero che sarà il più forte nell'ultima settimana, diciamo così, però nessuno può sapere adesso. Senti, tu che lo segui da molti anni, hai visto un cambiamento personale in lui? Adesso lo vediamo più anche scherzoso a volte, rilassato. È cambiato come uomo Primož Roglič negli ultimi anni, tu che lo conosci più da vicino? Forse il ciclismo e le situazioni ti cambiano un po'. Penso che è un po' differente, diciamo così, che sa un po' di più di ciclismo che ha saputo, non so cosa, 7-8 anni fa, perché è ancora giovane nel ciclismo, diciamo così, sai, questo è forse il problema, però no, è un po' differente, forse ha visto che può correre anche così. Io penso, come Remco ha detto, che è nervoso. Non so, davvero non so, almeno non si vede questo. Guarda, il problema forse è che hanno cambiato tutta la squadra praticamente, ma lui no, lo vedo molto forte. Pensando alla carriera in generale di Primož Roglič, cosa pensi? Che ruolo ha quella sconfitta, sai, la cronometro della Planche des Belles Filles nella sua carriera? E pensi che lo ricorderemo soprattutto per quello, quando si sarà ritirato, o per le sue vittorie poi alla Vuelta, o se dovesse vincere il Giro, alla Liegi? Sai com'è nella vita, sempre si ricorda quello che non so male o come. Spero che si ricorda per le vittorie, perché ci sono tante in questi non tanti anni, nella sua carriera ci sono davvero tante grandi vittorie. Anche speriamo che ci ricordiamo anche per la vittoria al Giro d'Italia. Quel tour era sì, sicuramente. Non so come che ti cambia, però spero che si ricordiamo di tutte le vittorie che ha fatto. Ultimissima domanda, basta parlare di Primož, parliamo di David. La cosa più bella che hai visto in questi primi giorni in Italia e la cosa più buona che hai mangiato? Più buona che ho mangiato in Italia, tutto è buono, davvero, davvero, non so, tutto qualunque cosa che provi è davvero buona è qua in Italia. E il posto? Dove abbiamo stato, Giaolo? Dove siamo Vedo stati? Che abbiamo Napoli. Lo stesso problema, già dimenticato. No, Napoli. Cosa si dice in Italia? Se sei in Napoli, questo è... Se vedi Napoli, poi muori. No, sai perché? Perché sono stato là con la macchina e non è così. No, ma dai, forse... Siamo stati a Salerno, forse. Però pioveva quel giorno. Al Gran Sasso. No, il Gran Sasso era proprio freddo. No, diciamo a Napoli, però vicino a Napoli. Sono stato là sotto il Vesuvio, sai? Okay. Così 15 chilometri sotto il Vesuvio. Ed era bello anche a causa di tutti i colori di calcio, che sono i campioni. Così era bello, diciamo così, ma le più belle cose anche arrivano. Sì. Ci fai un saluto in sloveno? In sloveno? Sì. A chi? Ai nostri ascoltatori. Il podcast si chiama Gironimo, se vuoi menzionare. Gironimo? Sì. Gironimo. Poslušajte Gironimo in Uživajte op tem podcastto. Grazie mille. E complimenti per il tuo italiano. Ah, no, non è buono, però. È ottimo, bravo. Ciao amici, un grande abbraccio dal Portogallo. Come sta Almeida? Più forte rispetto al passato? Più esperto rispetto alla precedente edizione del Giro? Sì a tutte queste domande. Almeida è un leader più fiducioso, che comunica meglio con i suoi colleghi, che non ha paura delle responsabilità e che, quando necessario, dimostrerà che esiste un solo piano negli UAE, il piano A di Almeida. Ho parlato con lui durante lo stage in Sierra Nevada. Conosco questo ciclista da tantissimi anni. Almeida è più maturo, tranquillo, ama il Giro d'Italia e spera che il Giro ricambi quell'affetto. Come? Un podio sarebbe un bel modo per chiudere questo ciclo di 4 presenze consecutive. La prossima stagione Almeida parteciperà al Tour de France. Almeida vuole il podio e, nonostante la forte concorrenza, sì, riuscirà. Può vincere, è certo, ma puoi anche perdere. Non ho una sfera di cristallo. Anche una cosa posso dire. João Almeida crescerà per tutto il Giro e, per tradizione, è un atleta che finisce forte. Perché non fare quello che ha fatto Pogacar in Tour nel 2021, alla Planche des Belles Filles? Il Monte Lussare sarebbe per sempre terreno sacro per i portoghesi. Il Portogallo sogna con la prima vittoria in un Gran Giro e Almeida ha già dimostrato una grinta impressionante, una capacità di sofferenza che sfida il limite e, con un po' di fortuna, potrebbe raggiungere il campione a Roma. Una giornata perfetta sarebbe vedere José Mourinho a Roma accanto a João Almeida e il trofeo senza fine nelle mani di un portoghese. A proposito di Mourinho, ricordo di averlo conosciuto durante la Grand Départ del Tour de France in Inghilterra. Rui Costa era campione del mondo e correva per la Lampre. Quel giorno Mourinho fece visita a Rui Costa. È stata una bella giornata per lo sport portoghese, una bella giornata per il ciclismo portoghese che sta soffrendo internamente. Che bel sogno. Non svegliarmi, ti prego. Sognare è gratis. Ciao amici. Sognare gratis, dice Gonzalo Moreira, e ha assolutamente ragione. Sì, devi addormire però per sognare. Qua si sogna poco a questo giro. Sì, si sogna un po' pochino, ma un ringraziamento ai tre giornalisti che ci hanno aiutato a conoscere i protagonisti, un ex protagonista e gli altri attuali protagonisti del Giro. Sono fortunati i portoghesi che seguono il ciclismo in TV, e glielo commenta Gonzalo Moreira, che secondo me è un narratore incredibile. Però anche gli italiani. È anche un ottimo italiano, finalmente l'abbiamo sentito parlare italiano. E... si è aiutato con Google Translate, mi ha detto in privato, la pronuncia va benissimo. Anch'io quando devo parlare in italiano vado su Google Translate. Va bene, sì, io qualche volta, no, col francese mi aiuto molto, con l'italiano forse anche senza. Ma dicevo, anche gli italiani che guardano il ciclismo in TV non sono del tutto sfortunati, anzi, perché di tanto in tanto sullo schermo, durante questo giro, compare il volto e la voce e i racconti. Che già, tra l'altro, facente parte di un'ottima squadra. Non solo lui, ma lui. Lui è un po', come dire, il riferimento in questo momento specifico. È diventato l'idolo di tanti per il suo modo di approcciarsi al ciclismo, perché poi non viene dal mondo del ciclismo giornalisticamente, e si è invece immerso totalmente nella realtà di questo sport. Stiamo parlando di Ettore Giovanelli, che avete ascoltato in apertura. Abbiamo chiacchierato con lui ieri per una decina di minuti dopo la tappa, e questo è la nostra intervista o chiacchierata o dialogo con lui. Finalmente abbiamo trovato Ettore Giovanelli, è un po' di tempo che ti inseguivamo, tu non lo sai, non ci hai visto, ma eravamo sulle tue calcande. Eccomi qua, siamo sempre qui fra il backstage del palco del Giro e qui fra i mezzi della Rai nel nostro paddock, preparando servizi, cercando di concludere la giornata dopo sempre una bella tappa al Giro. Non solo abbiamo trovato Ettore Giovanelli, ma abbiamo già un paddock nella prima risposta. La tua parola chiave, come... Tu ormai sei un uomo di ciclismo, ti abbiamo accolto a braccia aperte, ma anche perché stai facendo un lavoro eccezionale, però ti senti ancora che stai entrando in un ambiente diverso. Cioè, certamente, io ho fatto 20 anni di Formula 1, quella ormai era la mia comfort zone, il mio ambiente, e poi la Rai ha perso i diritti e quindi, diciamo, mi sono riciclato fra lo sci, i campionati mondiali d'inverno, e il ciclismo, e il Giro, ormai questo è il quinto Giro per me, quindi piano piano sto imparando, sto cominciando a capire la Formula 1 è un attore d'avorio, c'è il paddock in cui non entra praticamente nessuno se non i piloti, le squadre, i meccanici, qualche giornalista, i VIP, e si vive lì, praticamente si gira per il mondo ma si è fermi in quel microcosmo. Qui invece è ben diverso, è molto, molto più umano, molto più a contatto con la gente, quindi molto interessante. Qual è la cosa che ti piace di più del ciclismo, di questo mondo, e qual è che ti piace meno anche? Allora, mi piace moltissimo il sacrificio, la fatica che fanno questi ragazzi che si preparano davvero tanto, soprattutto per un grande giro, e mi piacciono tanto i gregari perché fanno grande fatica per i loro capitani e sono a volte davvero delle pedine fondamentali, essenziali, anche se spesso non viene riconosciuto a sufficienza del loro lavoro. I capitani sì, lo sanno bene quello che vuol dire. Mi piace questo, poi mi piacciono ovviamente tanto le tappe in salita, quelle, e poi mi piacciono questi ultimi corridori, Evenepoel, Van Aert, questi che vanno via a 60-70 km e non hanno paura di essere seguiti dal gruppo. Ma appunto, diciamo, ancora è un mondo che continuo a scoprire con grande piacere. Anche all'estero ho fatto qualche Tour de France, le classiche del nord, e sono davvero corse diverse. Il Giro però resta la corsa più bella, soprattutto perché è il Giro d'Italia. Hai parlato della preparazione dei corridori, invece tu come ti prepari prima di una corsa? Cosa leggi, cosa studi? Allora, io innanzitutto leggo tutto quello che offrono i colleghi, quindi dai quotidiani ai siti, perché evidentemente c'è tanto da capire e da imparare. Poi però l'importante per me è la percezione, la comunicazione così diretta, quello che succede durante la corsa o subito dopo. Quindi mi rendo conto che a volte essermi preparato sicuramente dà tranquillità, sicurezza, ma poi tutte quelle informazioni non le usi, perché dopo c'è la cronaca, c'è l'immediatezza del risultato, della felicità, della gioia, della delusione, e quindi poi devi cercare di interpretare bene, soprattutto con i corridori, con i ragazzi, quello che sta accadendo, succedendo, perché io ho la fortuna, l'onore di poter essere quest'anno dietro al palco della premiazione, che in realtà è anche quello è un microcosmo, un piccolo paradiso di felicità, perché chi arriva lì è contento, perché o c'ha una maglia o ha vinto la tappa, mentre prima mi toccava andare dagli sconfitti ai pullman, ed è ben diverso dover fare un'intervista con qualcuno che non è contento. Lì invece è molto più facile, si riesce a carpire anche dei momenti particolari, e quindi è davvero un privilegio quest'anno, anche perché ho la fortuna di stare con Davide Cassani, che è un passepartout, e quindi questo ovviamente rende tutto molto molto più facile. È come un voler vincere facile, segnare a porta vuota, perché tutti i corridori si fermano con lui, è una fonte inesauribile di stimoli, di notizie, e quindi quest'anno devo dire che ho un compito non ingrato come gli anni scorsi, più semplice, più bello. Però sul come ti prepari, tu sei nella squadra di quest'anno forse l'unico, forse anche Umberto, non lo so, quello che fa un lavoro doppio, perché tu sì sei a parlare con Evenepoel a fine tappa, ma magari sei, come il giorno della crono, alla biblioteca malatestiana al mattino, per cui hai anche una preparazione doppia da fare. E lì vi ho anche incontrati, perché anche a voi piace questo, perché il Giro d'Italia è meraviglioso, ma l'Italia del Giro è stupenda anche, quindi io ho la fortuna di poter realizzare qualche servizio anche su quello che c'è intorno, soprattutto l'anno scorso nelle città di partenza, quest'anno nelle città d'arrivo. Oggi eravamo a Cesena ed è stato meraviglioso poter visitare questa biblioteca malatestiana testiana e poter realizzare un servizio lì. Si imparano tante cose, è veramente un privilegio, si scoprono delle situazioni, dei personaggi, e questo secondo me fa molto, molto, rende molto il giro anche più interessante di altre corse, perché l'Italia è una miniera, dalla natura all'arte, alla cultura, si trovano sempre degli spunti molto belli, e mi sembra che la gente apprezzi, perché è bello vedere la corsa, l'agonismo, ma è bello vedere anche ciò che c'è intorno, e quindi con grande leggerezza e senza essere troppo accademici, cerchiamo di stimolare un po', di far vedere qualcosa di bello, magari invogliare qualcuno a venire a vedere questi posti, e quindi per me è un onore. Diciamo che faccio due lavori: da una parte faccio il pittore, così diciamo mi prendono in giro i miei colleghi, perché faccio il colore, in senso un po' anche dispregiativo per loro, ma per me di grande apprezzamento, e poi invece faccio il giornalista normale all'arrivo. E questa tua poliedricità, no? Perché tu sei molto apprezzato anche per questo, riesci a passare dall'intervista al campione, al tifoso a bordo strada, alla cultura. Da dove viene? Che tipo di preparazione anche hai fatto per diventare questo tipo di giornalista che sei adesso? Sì, io in realtà ho studiato filosofia, però poi sono andato per 10 anni in Germania, e lì comunque alla Bayerische Rundfunk, alla televisione tedesca, ho imparato molto, devo dire. E poi in realtà il passepartout, la vera chiave di volta sono le lingue, perché avendo imparato il tedesco, l'inglese, il francese, lo spagnolo, e dovunque sono riesco a comunicare con le persone che mi interessano, e questo davvero dà moltissimo, perché le persone si aprono, quindi riesci a ottenere più informazioni, ma soprattutto è l'atteggiamento, vedi che la persona è disposta a dare qualcosa di sé, e quindi diciamo fra le cose che ho studiato che sono servite di più forse sono le lingue, ma anche la formazione umanistica, che spesso non è fondamentale in questo mestiere, anzi, però ti aiuta un po' a capire, è un po' di psicologia se vogliamo, perché quella è anche importante. Però poi devo dire, non so, io lavoro così come mi viene, quindi non ci sono grandi segreti o ricette particolari, semplicemente diciamo così, ecco, la passione, la voglia, la curiosità di capire e poi di trasmettere, di comunicare agli altri, semplicemente, molto semplicemente, senza nessuna pretesa didascalica, semplicemente cercando di comunicare questo mondo che è meraviglioso nel modo più semplice possibile. Grazie mille, Letto, per questa intervista e per il modo con cui ti approcci a questo lavoro, che è fonte anche di ispirazione. A tutti voi, grazie, ma che è bello vivere insieme, condividere questo mondo e quindi cercare di divertirsi e di imparare sempre qualcosa. Le ricette dei campioni, per campioni veri, veri, veri, veri, per vincere, vincere, con cibo e gusto! Buonasera amici e bentrovati alle ricette dei campioni per una nuova, entusiasmante, ma soprattutto buonissima ricetta che vi permetterà di vincere! Salve Gustav, cosa ci prepara oggi? Beh, oggi andiamo a preparare un piatto della tradizione. Paccheri in salsa di Girkandia per garantirsi almeno il terzo posto. Sento già l'acquolina in bocca! Oltre ad intravedere un dignitosissimo terzo posto. Le ricette dei campioni. Vincere, vincere, vincere. La ricetta di oggi. Questa ricetta è davvero semplicissima. Per fare un ottimo piatto di paccheri in salsa di Girkandia per garantirsi almeno il terzo posto, ci occorre una cassetta di pomodori dal sapore estivo, una patata disidratata del Molise, un gambo di carciofo a vostra scelta e ovviamente la Girkandia raccolta ad aprile nelle coste della Birmania, poco frequentate dagli abitanti e dai turisti. Fate sciogliere a bagnomaria per circa 2 ore, meglio 3 ore, ma mi raccomando, non incollate il composto. Non piace al piatto, non piace a me, non piace a chi vuole vincere. Dopo circa 5 ore, il nostro piatto di paccheri in salsa di Girkandia sarà pronto. Non vi resta che gustarlo prima di essere acclamati. Grazie, Gustav. E voi che ci seguite, siete pronti per un dignitosissimo terzo posto? Quanto fa ridere! Molto! Le ricette dei campioni per vincere, vincere, vincere con cibo e gusto. Vi dà appuntamento alla prossima ricetta! Quindi non solo per vincere, ma bene anche per dignitosissimi piazzamenti queste ricette. Sì, evidentemente funziona. Meno male, perché poi vince uno solo, almeno se si fa una cena, tutti ci si può... Sì, il problema è che la Girkandia dove si trova? Perché io... Sulle coste della Birmania. Poco frequentate dagli abitanti locali, non hai ascoltato? No, ho ascoltato, ma ho anche googolato, perché magari mi sfuggiva, vabbè. Ma Google è controllato dagli abitanti locali, non te le fanno vedere queste cose. Mi chiedevo solo se... Cioè, il nome della ricetta è paccheri in salsa di Girkandia per garantirsi almeno un terzo posto. Il nome intero. Sì, è proprio registrata in questo modo da Gustavo. Quindi non si può vincere, vincere, vincere mangiando i paccheri in salsa di Girkandia. È un po' un controsenso, secondo me. O forse li devi cucinare diversamente. Fai solo 1 ora e mezza di bagnomaria, magari. Non lo so. Non contraddirei le istruzioni di Gustavo, che ha un'autorità in questo mondo. E secondo me è uno degli chef delle squadre che sono qua in hotel con noi. Potrebbe essere. Ho visto uno con la faccia da Gustav, quello della Coffee Dis, forse l'ho visto che raccoglieva delle erbe in luoghi poco frequentati dagli abitanti di San Giovanni in Persiceto. Può darsi. Comunque sì, siamo in hotel con due squadre del giro, una è la Coffee Dis, l'altra è la Israel Premier Tech. Entrambe hanno il loro cuoco e entrambe hanno dei corridori al Giro d'Italia, perché sono squadre del Giro d'Italia. Incredibile. E due di essi li abbiamo incontrati oggi. E adesso vi facciamo ascoltare, come ormai sta diventando una piccola tradizione dei giorni di riposo, una serie di chiacchierate con corridori fatte in modo più rilassato del solito, perché quando li incontriamo alla partenza o all'arrivo, ovviamente il tempo a disposizione è poco, durante i giorni di riposo se ne ha di più, si può parlare di altro, più a lungo, con più serenità. L'abbiamo fatto con Simone Consonni, della Cofidis, velocista, pistar, campione olimpico, e con Simon Clark, della Israel Premier Tech. E dopo di loro sentiamo un'altra breve chiacchierata, invece, perché è stata fatta una partenza di un paio di giorni fa, con una grande campionessa che è presente a questo Giro d'Italia in un ruolo nuovo, che è Fabiana Luperini, DS della Corratec. Ascoltiamo questi tre contributi uno dopo l'altro e dopo torniamo e andiamo a concludere la puntata di oggi. Eccoci, Simone Consonni, buongiorno, buon riposo. Grazie. Stai riposando? Sì, dai, giornata di riposo è sempre... piena di piccoli impegni, quindi la si riempie sempre, e, però dai, anche così anche gli impegni ti fanno un po'... non pensare alla corsa e quindi recuperi anche mentalmente, quindi per ora un buon bel giorno di riposo. Quindi non dobbiamo chiederti niente sulla corsa, se no ti facciamo pensare alla corsa. No, va bene così, va bene così. È sempre bello avere un po' di tempo libero per fare due chiacchiere, parlare con gli altri, e poi magari stai parlando con gli altri ti escono dei ragionamenti e delle riflessioni che poi da solo non faresti, quindi è sempre una bella cosa quando ecco, rifletti un po' su quello che è stato, su quello che sarà, e fai un po' il quadro generale della situazione. Senti, tu sei uno dei leader di questa squadra, si può dire, e com'è il Consoni leader? Cioè, come fai rispettare il tuo ruolo? Questo ruolo è importante, gli altri giovani devono seguirti, devono imparare da te, devono fare quello che tu chiedi. È un ruolo che fa per te? Ti senti a tuo agio e come lo svolgi? Ma è una cosa che viene con molta naturalezza, nel senso... Già negli anni passati mi viene in mente in Colpack, comunque... Ero sempre io l'uomo che, tra virgolette, gestiva un po' il leader anche in corsa, e anche quando non dovevo fare le volate o anche quando la corsa era un po' più dura, mi piaceva essere un po' il regista in corsa, e quindi è una cosa che viene naturale. Sicuramente qua sento... anche il fatto di insomma dare morale, dare consigli e essere sempre quello pronto anche a mettere il sorriso e il buon umore in squadra, però è un ruolo che mi piace, che mi sento a mio agio e che mi viene, come ho già detto, con naturalezza. E in questo giro sta facendo delle ottime prestazioni Johnny Milan, sì. Tuo compagno di tante esperienze in nazionale su pista. È più la gioia, ovviamente sei felice per lui, c'è un pizzico di invidia perché lui ha trovato questa vittoria che a te ancora manca al giro, perché sotto i riflettori, o sei solo contento, non c'è minimamente nessun briciolo di invidia? Ma con Johnny ho iniziato a lavorare in pista un po' di anni fa. Sei in pista è più facile avere sott'occhio il potenziale e le qualità proprio fisiche risaltano di più, perché comunque sono prove brevi, soprattutto anche in allenamento vedi il motore di una persona, e quindi si è visto subito, come si era visto subito con Pippo in pista quando magari su strada non era ancora così tanto sotto i riflettori, che lui insomma ha qualcosa in più a livello di motore, a livello di wattaggi, quindi ti dico con estrema tranquillità che non c'è neanche un pizzico di invidia, perché alla fine sono consapevole di quanto lui è forte, e quindi non è una cosa che non so come spiegare, cioè non è una cosa che dico cavolo lui ce l'ha fatta e io no, perché comunque col mio potenziale, le mie e quello che sono io, penso di star raccogliendo bene, tanto. Sicuramente la tappa al giro è una cosa che mi manca, e quindi se devo dirti la verità vedo un pizzico di invidia quando vedo qualsiasi vincitore di tappa, ma come vincitore di tappa, quindi non come Jonathan Milan o come può essere un altro corridore, e quindi ecco, più che altro è quello. Ci sono arrivato tante volte vicino, quest'anno per una serie di cose non sono ancora riuscito a tenere quanto potrei, però il ciclismo è così e non mi pesa neanche, perché come ho già detto ormai la cosa che, che mi preme cercare di portare a casa una vittoria. È sicuramente un buon piazzamento e un buon podio è qualcosa che ti dà morale, però ecco, sono ancora concentrato sull'obiettivo grosso. Cosa hai detto o scritto a Milan dopo quella vittoria? Ma no, sinceramente non gli ho scritto niente, perché immagino e so quanto, passatemi il termine, rotture di scatole hai dopo una vittoria e una prestazione così. Giornalisti, familiari, sicuramente avrà avuto un casino di persone a cui rispondere, a cui scrivere, quindi non gli ho scritto niente, l'ho visto il giorno dopo e gli ho tirato una pacca sulla schiena e gli ho detto bravo giovane. Molto forte secondo me gliel'hai tirata sta pacca. Sì, perché per la massa che ha, per farti sentire devi essere bello incisivo con lui. Ascolta, come la immagini questa tua vittoria al Giro, sperando che arrivi da una volata, una fuga? Te la sei sognata proprio nei dettagli? Come può arrivare la vittoria di tappa di Simone Consogni al Giro? Ma no, sinceramente no, perché al Giro ho fatto parecchi podi, il mio primo podio è stato in volata, 2 anni fa sono entrato in 2 fughe da lontano e in una ho fatto secondo dove mi ha battuto solo Bettiole, nell'altra quarto su un arrivo più impegnativo. E quindi sai, un atleta come me è difficile centrare la vittoria, perché la verità è che in volata dai velocisti sono battuto, in salita da gente come Matthews o Pedersen sono staccato, e quindi sono lì ancora un po' a girare nel limbo, e spero che in questo giro si riescano a allineare un po' i pianeti e trovare la mia giornata giusta. Però ecco, non... una vittoria è una vittoria, quindi non... Comunque arrivi, esatto. Sicuramente non arriverà crono, è l'unica cosa che sono convinto, sono sicuro, anche perché la prossima crono ci sarà da penare, penso, per il tempo massimo, però poi... Ecco. Quindi non a crono, ma i tapponi alpini non li escludiamo? Ma sai, se i tapponi alpini magari con un po' di neve così diventano, passiamo tutte le gallerie, magari diventano tappe piatte, non si sa mai, quindi escludiamo solo le crono, dai. Ascolta, una cosa importante che dobbiamo chiederti: noi di solito durante un giro a un certo punto intervistiamo i corridori coi baffi, okay, perché abbiamo questo detto, ciclista baffuto sempre piaciuto, okay. E tu insieme forse a Magnus Cort in questo giro sei il corridore coi baffi un po' più evidenti. Una scelta precisa? Te l'ha chiesto la tua compagna? Da dove deriva questa scelta? Ma no, è uscito tutto per scherzo. L'anno scorso in ritiro a gennaio, io e mio compagno, ex compagno di squadra Sainok, eravamo in camera insieme in ritiro, una sera dopo il lungo abbiamo bevuto una birretta tutti insieme, siamo andati in camera e ho detto ma sì dai, facciamo i baffi, e da quel giorno lì praticamente ne ho più tolti. La mia ragazza prima ha storto un po' il naso, poi dopo una settimanina che sono tornato a casa mi ha detto però sai che ci ho fatto un po' l'occhio, e quindi è rimasto il baffo per così, è uscita così per gioco, e a me piace, così mi differenzi un po', e a lei anche, quindi continuiamo col baffo. Come si cura? Come lo curi? Ma no, non faccio niente di speciale, semplicemente quando ho tempo come oggi, prima di pranzo faccio la barba, mi lascio il baffo e tutto qua, non mi tiro matto per sistemarmi i baffi, ecco. Hai un soprannome? I tuoi compagni francesi soprattutto come ti chiamano? Simone, o hai un nome più corto? Ma mi chiamano Conso, anche se con... Conso? Sì. No, il problema è quando c'è anche Cimo, perché tra Cimo, Simo e... anche loro si confondono, anche i massatori, quindi fanno un po' di confusione, però no, ecco, se mi chiamano Conso tranquillamente, come mi chiamano anche spesso i miei amici, e nessun soprannome. Allora, grazie mille Conso, grazie ti lasciamo ancora un po' di riposo quest'oggi e ci rivediamo sulle strade del Giro. Buona giornata. Grazie mille a voi. Allora, Simon Clark, come stai? Bene, grazie. Tutto bene. Siamo qua al primo giorno di riposo e speriamo un'altra seconda settimana bella. Come funziona il tuo giorno di riposo di solito? Non è tanto di riposo, sinceramente. Ora che ci alziamo, magari dormi un pochettino di più, ma per il resto fai un giro in bici. Oggi avevamo i VIP di Israel, di Premier Tech, che siamo andati a Modena a fare un giro con loro in bici e poi sono tornato, appena pranzato e ora siamo qua. Poi ho massaggio, cena e passa abbastanza veloce questo giorno. E domani si riparte. Sei stato protagonista nella prima settimana, secondo me, della tappa più emozionante di tutte, quella di Napoli. Io poi ero dopo la linea dell'arrivo quando sei arrivato e ti ho visto stare lì per qualche minuto da solo mentre piangevi. Sì. Cosa si prova a sapere che tutto il mondo ti sta guardando mentre piangi? Ti rendi conto? È qualcosa che a cui pensi o meno? No, sinceramente degli altri non ci pensavo proprio. Era più... cioè, non è che ho scelto di avere quella reazione, però ho due bambini a casa, la moglie che mi supporta a fare questo lavoro e facciamo un sacco di sacrifici stando via di casa mesi anche per preparare il grande giro prima di neanche farlo. E questi sacrifici si giustifica con i risultati. E quando arrivi così vicino per poi non poter neanche giocare la vittoria, è proprio difficile. Non mi era mai successo, sinceramente, la prima volta che arrivo da una fuga che così vicino all'arrivo e perdere. Cosa ti hanno detto i tuoi figli o cosa tu hai detto a loro dopo quella giornata? Perché magari hanno visto il papà in televisione piangere, e cosa gli hai detto? Sono un po' piccoli, il più grande ha 4 anni e l'altro ha 6 mesi, quindi sono piccolini, però no, erano contenti di vedermi in televisione e mi tifavano da casa. Come si chiamano? Stella, c'ha 4 anni, e Nino ha 6 mesi. Nino, ma si chiama proprio Nino? Sì. Come mai? Abbiamo cercato nomi che, essendo australiano, che va bene in inglese, si pronuncia identicamente sia in inglese che italiano, che è molto più difficile che pensi, che anche nomi che sembrano semplici non si pronuncia lo stesso sia in inglese che italiano. Allora, avendo la moglie italiana e io inglese, abbiamo cercato di scegliere nomi che dovunque che stiamo non dobbiamo pronunciare o i nostri figli non hanno fatica che da un paese loro si chiamano così e da un altro paese si chiama diversamente. Tornando a quella tappa, a me ha colpito anche perché io ho la tua stessa età, ho 36 anni, e cosa significa provare questa emozione così forte, negativa, alla tua età rispetto a quando perdi ai 20 anni, no? Che uno magari reagisce in modo istintivo. Com'è soffrire una sconfitta di questo tipo alla tua età? Sì, penso peggiore. Penso che se era 10 anni fa non avrei pianto dopo l'arrivo, ma... sapendo che non mi manca tantissimi anni ancora nella mia carriera per perdere un'opportunità del genere e i sacrifici che adesso ho la famiglia e sto via di casa tanto per questo lavoro sono cose che ti fa pesare di più e penso che quelle sono le emozioni che ho avuto dopo l'arrivo. Cosa hai pensato quando il giorno dopo invece la fuga è arrivata e il gruppo si è disinteressato della fuga, invece il giorno prima volevano venirmi a prendere e li hanno ripresi a 300 metri? Sì, un po' sì, che sembra sfortunato, però allo stesso momento se provavo io personalmente di andare in fuga il giorno dopo, penso che non mi avranno lasciato, che c'è squadre che scelgono certa gente di che non vogliono in fuga. E tu sei uno che molti non vogliono in fuga, perché poi vinci tu. Penso dopo il giorno prima sicuramente, che me e Alessandro abbiamo fatto fare fatica a tante persone. Però non è, cioè, era una fuga di squadre piccoli, e anche se l'Israel non è più tecnicamente World Tour, penso che non ci avranno lasciato entrare in una fuga del genere così facile. E niente, ci riproviamo. Tu sei uno dei più esperti fuggitivi in gruppo. Cosa ti dicono gli avversari quando parti o quando torni dopo la fuga? Ti dico, quanta fatica ci hai fatto fare, perché si arrabbiano con te? Cosa ti dicono? No, bah, questa volta era una reazione... che erano tutti dispiaciuti che siamo stati ripesi così vicino l'arrivo, però c'erano sempre tanti, mi sono venuti a commentare della fatica che hanno fatto dietro per riprenderci. E a te fa piacere quello? No, piacere no, perché speravo che non facevano fatica e ci lasciavano andare. Però sì, almeno se vogliono riprenderci ci facciamo lavorare. E ho studiato tanto questo arrivo dopo tutto quello che è successo nell'ultimo chilometro. E ci sono tanti fattori. Che contribuiscono a questa situazione. Uno che tanta gente magari non sanno è che quando ho vinto la tappa in 2018 alla Vuelta ero in fuga con Mollema e Alessandro, e quella volata ho vinto abbastanza facile. Allora ero sicuro che lui stava pensando, ok, ho lavorato con Simon finora, ma se la porto fino all'arrivo succede come è successo alla Vuelta. E allora lui sicuramente stava pensando come faccio a comportarmi diversamente per avere più possibilità nella volata. E poi... il problema è che siamo già tutti e due arrivati secondo in una tappa al giro. Abbiamo tutti e due avuto la maglia rosa. E quindi per noi, se non vincevamo, non era niente. E allora per quello l'abbiamo perso, perché tutti e due noi eravamo disposti a perdere tutto se non vincevamo. Perché arrivare secondo all'altro non cambiava niente. Cioè, bella figura, ma nella storia non cambia niente. Magari la gente non si rende conto di come va veloce il gruppo, non in generale, ma nell'ultimo chilometro. Sotto 60 all'ora non scendono mai. Allora, loro fanno l'ultimo chilometro in un minuto. Noi, tirando dopo 50 chilometri, magari faremo una media di 45 andando già bene senza fermarsi a non dare cambi. Lì fare una media di 45 in un chilometro perdi già 30 secondi. E quindi, e questo senza giocare e vedere. E quindi alla fine penso che ci mancava 10 secondi in più lo stesso, anche... se non è andato anche se senza andare a non dare cambi è tutto. La cosa più importante per arrivare alla tua età ed essere ancora così competitivi, so che sono tantissime cose, però la più importante, passione. Sì, mi piace andare in bici, e anche oggi a girare, cioè mi piace andare, anche se giorno di riposo non sono obbligato ad andare in bici, esco in bici perché mi piace. Quindi continuerai a farlo anche dopo che avrai smesso? Sì, in un modo sicuramente diverso. Magari non mi piace allenarmi più su strada, che per me è tanto pericoloso, e sicuramente farò molto più gravel e fuori strada, però sì, in bici andrò sicuramente. E poi un tempo fa tu hai detto che hai scelto il ciclismo perché fisicamente non eri adatto ad altri sport, no? Il ciclismo invece non ha prerequisiti, sì, da questo punto di vista. E questa è la cosa più bella del ciclismo, che lo rende uno sport diverso? Oppure secondo te cos'è l'aspetto più bello e diverso del ciclismo rispetto agli altri sport? Questo è uno degli aspetti più bello, penso, che non devi essere alto più di 2 metri o più leggero di 50 kg o flessibile quanto è. Vengono in tutti i modi diversi e puoi essere competitivo con qualsiasi fisico. E l'altra cosa bella è che non tante sport hanno così tanto prerequisiti fisico e anche tecnico, come guidare la bici. E se non sai a fare uno, devi avere motore, devi avere il fisico, devi avere il VO2 max e tutto abbastanza alto, però poi devi sapere andare in bici, perché appena non sai, sei per terra, sei fuori. E questa è la cosa bella, che secondo me non ho il fisico fenomenale come i super big, però so benissimo andare in bici, e questo mi aiuta tanto di essere a un livello magari più alto che se dipendevo solo dai miei aspettivi fisici. Ti piacerebbe se i tuoi figli andassero in bicicletta nel futuro? No, sinceramente, onestamente preferisco di no, che anche se sono contentissimo con la mia carriera e mia vita, è una vita dura, e magari da fuori sembra bella e tutto, però i sacrifici sono tanti e la fatica è tanta, e se non hanno la passione a livello mio, non preferisco che non lo fanno, perché è troppo duro per fare al cazzo, diciamo. Però se loro mi fanno vedere che hanno quel passione e la vogliono fare, certo che li sopporto finché dove vogliono arrivare. Grazie mille, Simon. Niente, prego. Fabiana Luperini, ci siamo sentiti l'estate scorsa, cioè ci hanno sentito anche i nostri ascoltatori, che ci parlavi del tour femminile. Ci ritroviamo al Giro d'Italia maschile, un esordio importante per te. Come sono state queste prime giornate sulle strade del Giro? Ma sicuramente belle, emozionanti, perché comunque il Giro d'Italia, soprattutto maschile, è seguito da tantissima gente, appassionati ma anche non appassionati, dalla gente comune, quindi vedere tutta questa gente lungo le strade, anche ieri c'era tantissima gente, è molto bello. L'ultima volta che ci siamo parlati mi parlavi del tuo agriturismo, adesso sì, ci ritroviamo che sei alla guida di una ammiraglia. Cos'è successo, com'è stato questo rientro così per noi inatteso? Non so se c'era già un percorso avviato con Corratec. No, è stato in attesa anche per me, comunque abbiamo parlato durante l'estate, abbiamo trovato questo accordo, poi non pensavo neanche io di avere tutta questa risonanza o questa attenzione. È stata una bella sorpresa sia per me che per la squadra, e quindi sono contenta di essere qua. E all'agriturismo chi ci pensa durante il Giro d'Italia? Ci penso anch'io, perché comunque proprio ora ho ricevuto un messaggio dai turisti che abbiamo, però per fortuna ho lasciato tutto in buone mani e credo che per 20 giorni possano fare anche senza di me. In un qualche modo sei ancora coinvolta? Sì, certo, abbiamo la presenza di turisti già da ora, fortunatamente, e logicamente chiedono sempre qualcosa. Ad esempio stamani mi hanno chiesto se potevano avere dell'olio di mio babbo, quindi comunque so che stanno bene, sono soddisfatti, quindi sono tranquilla da quel lato lì. Non li hai invitati al Giro d'Italia, i turisti? No, so che sono tedeschi, so che lo seguono tramite la televisione tedesca e fanno il tifo per la mia squadra. Tra l'altro lo sponsor è tedesco, quindi siamo in linea. È comunque una cosa diversa avere una direttrice sportiva donna in un ambiente come il ciclismo maschile. Tu percepisci questa differenza? Ti senti di essere in un ruolo anche di avanguardia, come spesso sei stata quando correvi, che eri davanti a tutte, anche oggi in un qualche modo sei davanti a tutte, o non la percepisci questa differenza una volta che sei in mezzo al gruppo? Sì, naturalmente so che al momento sono l'unica, quindi un po' sì, penso anche per gli atleti sia qualcosa di particolare magari avere un'ammiraglia, una donna piuttosto che un uomo. Però per quanto riguarda l'ambiente, gli altri direttori sportivi sono tutte persone che bene o male, soprattutto gli italiani, conosco perché anche loro sono ex corridori, all'incirca hanno la metà, quindi insomma sono stata accolta bene e quindi mi sento a mio agio. Questo tuo primo Giro d'Italia potrai dire è stato un successo alla fine di questo giro per cosa? Quale sarà l'elemento che ti potrà dire questo giro è stato un successo per me, Fabiana Luperini? Ma per me se va tutto bene, se insomma i ragazzi sono soddisfatti, se la squadra è soddisfatta, logicamente sarebbe il massimo se ottenessimo una vittoria di tappa. Grazie mille, buon giro. Grazie a voi. Leonardo, ti sei riposato oggi? Per niente, sono più stanco degli altri giorni, però sono contento, nonostante mi sto riprendendo dallo shock di questa notte scorsa, insomma. Sì, anch'io sono abbastanza stanco e sai per causa di chi? Per colpa di chi, diceva sì, Zucchero, no, non lo so. Tua, perché mi hai fatto lavorare un sacco in questa giornata. No, mi spiace, sono contento anch'io di aver fatto parecchie interviste e insomma abbiamo dato un senso dopo anni ai giorni di riposo, il senso ce l'avevano già che era riposarsi, però abbiamo fatto tanti incontri oggi, è una puntata con poche voci nostre e tante voci altrui, per fortuna, e ne approfittiamo già adesso per ringraziare tutte le voci altrui che sono state disponibili a intervenire. Domani si riparte. Domani si riparte con la tappa numero 10. Così credo, l'ho perso conto. Dovrebbe essere la 10. E Scandiano Viareggio. Da Scandiano si parte domani. Paese di Eugert Zuppa. Sì, il nostro compagno di squadra di qualche giro fa. E si arriva. Si parte da Scandiano, si arriva a Viareggio. 196 km. La prima parte sembra una tappa appenninica, e lo è in effetti, perché si sale fino al Passo delle Radici, 1527 metri. Passo delle Radici metri, si chiama? Sì. Che è il luogo dove la fuga metterà le radici, no? Non lo so, anche perché è strano salire verso le radici. È vero, non ci avevo pensato. Sì. C'è un po' un controsenso. Da lì si scende, c'è un secondo e ultimo GPM a Monteperpoli, 491 metri sul livello del mare, e poi ci sono praticamente 75 km di pseudo pianura. Sì, un piccolo dentello intorno ai meno 25, però insomma il finale è molto molto piatto, addirittura il rettilineo finale sono 3,5 km. Mamma mia. E come può andare domani? Fuga, volata di gruppo, volata ristretta? Io ho un'idea, ma faccio cominciare te. No, mi aspetto la fuga, cioè la fuga andrà via sicuramente quasi subito e molto dipenderà dalla composizione di questa fuga. Se venisse fuori una fuga di fuggitivi di peso, insomma, non dal punto di vista della gravità, ma dal punto di vista del curriculum, potrebbe dipingersi uno scenario anche che li vede vincitori. Se no, io penso che non ce ne sono tante di tappe alla portata delle ruote veloci, per cui penso che le loro squadre si impegneranno molto. Quindi tu voti per la volata, fondamentalmente. Una volata in cui però i velocisti puri, sempre se che ce ne siano ormai a questo Giro d'Italia, perché non è che sono molti, non so se ci arriveranno, però i vari Matthews, Pedersen, Albanese e certo, ci saranno. Compagnia bella. Io invece per equilibrio direi fuga che prende vantaggio sulle radici e poi lo mantiene fino all'arrivo. Abbiamo parlato con Clark in questa puntata, lui può essere un nome per domani, Clark De Marchi ovviamente, però io dico, visto che andiamo in zona nord-ovest, Genova, dove ha vinto già l'anno scorso, Stefano Oldani. Sarebbe molto bello, perché è uno splendido corridore a cui vogliamo molto bene, come a buona parte dei corridori del gruppo, fortunatamente. Benissimo, allora adesso andiamo a goderci la seconda e ultima parte di questa giornata di riposo. Vi diamo appuntamento. Finalmente del riposo. Abbiamo un buon numero di ore ancora a disposizione. possiamo cenare a un orario normale, presentarci a tavola con i nostri compagni di viaggio di Shimano, che di solito noi finiamo talmente tardi che arriviamo a cena che loro sono già al dolce. O si stanno alzando. Oggi finalmente abbiamo pranzato con loro, ceneremo con loro, abbiamo anche passato un po' di tempo con loro perché anche loro non si sono riposati del tutto in questo giorno di riposo, ma hanno lavorato un pochino. Vi faremo sentire un breve frammento dedicato al loro lavoro odierno e poi un incontro con una persona importante di questa squadra, che è il decano di questa squadra, almeno perché in quanto meno giovane, ma è anche una persona che ha avuto una lunga storia nel ciclismo, una storia d'amore con il ciclismo che va avanti, ed è Duilio Vedovati. Sentirete la sua storia nell'audio con cui vi lasciamo. E vi diamo appuntamento. Dobbiamo ringraziare assolutamente almeno una persona. Dobbiamo ringraziare tutti i nostri incontri di quest'oggi. Fatica a leggerli tutti, che sono stati tantissimi. Più di tutti dobbiamo ringraziare Brut Salvadi, che è un nostro ascoltatore, perché ogni tanto capita di sbagliare, a noi molto spesso. Ieri abbiamo sbagliato completamente i volumi delle registrazioni delle interviste. Sono usciti dei file quasi inascoltabili. Fortunatamente Brut Salvadi ci ha aiutato rendendoli ascoltabili, come avete potuto apprezzare in questa puntata. Grazie mille. Mitico. E con tutti voi ci sentiamo domani, possibilmente, se tutto va bene. Speriamo di sì. Continuate a riposarvi. A domani, ciao. Speravi di riposarti oggi, eh? Oggi giornata di riposo, però per noi no. Lavato tutte le bici, tutti i mezzi, messo a posto le ruote. Cambiato una camera d'aria, c'è stata una foratura al giorno di riposo. Aspetta, foratura al giorno di riposo. Foratura al giorno di riposo, ti rendi conto? Ma non di una delle vostre bici. No, di una promessa che sarà... Che sarebbe? Dov'è Rocky? È andato in fuga? È andato in fuga Rocky! Che sarebbe tuo figlio? No, il figlio di Diego. E quindi abbiamo fatto assistenza anche il giorno di riposo. Rendiamoci conto. È arrivato Sergio il giorno dopo il suo compleanno. Buon compleanno, ragazzi, grazie. Com'è andata la tua festa di compleanno? Benissimo. Ci siamo divertiti un sacco ieri sera. Ma tu compi gli anni sempre al giorno di riposo. Il giorno di riposo. A prescindere sì, dalla festa. È come la Pasqua, è sempre il giorno di riposo. Vado a vedere cosa succede in furgone. Duilio, tu sei l'unico che non smette mai. Neanche di notte. Io sono sempre attivo. Sei sempre attivo. Aspetta che basso un po'. Ah, stavi ascoltando la musica, ti ho disturbato. Cosa stavi ascoltando? No. Arte varia. Dovresti dire che stai ascoltando il nostro podcast. Sto ascoltando il nostro podcast. Cosa state combinando ancora quest'oggi, in questa giornata che doveva essere di riposo? Ho lavato tutto il materiale, bici e macchine. Ah, io ti cerco sempre, Duilio, perché tu sei una figura fondamentale di questa squadra, però non ti vediamo mai in corsa, perché tu hai un altro ruolo. Io ho un altro ruolo, sì. Che sarebbe? Il mio ruolo è quello di fare star bene i miei colleghi quando arrivano. Che bel ruolo. Ruolo importante, ma bellissimo. Sì, sì, sì. Ce n'è sempre qualcosa da fare. In hotel ci si prepara le camere, si prepara tutto, preparo l'officina. Tutto quello che serve, perché quando arrivano devono essere... devono avere tutto a disposizione. Sei il meccanico della felicità. Sono il meccanico della felicità, sì. Tu sei andato in pensione e hai iniziato a fare questo lavoro. Sì, io lavoravo all'Eco di Bergamo, mi hanno prepensionato, ho iniziato subito a fare sto lavoro con Pietro Ageri, che mi ha chiamato subito poi ho avuto un problema in famiglia e ho smesso con le squadre, però mi hanno riciclato loro. Quando arrivi sistemi il furgone, poi hai un po' di tempo in cui e dipende, guardi la tappa. No? Quella sì, quella sempre. È sempre, sì. Magari non la vedo tutta perché c'è un po' di... preparare le valigie, devo parlare con la reception, con certo. Le cose che c'è da fare, che vogliamo. Avvisarli che ci sono quelli del podcast che arrivano sempre tardi a cena. Beh, no, quello sì, quello già, guardate che... Infatti ieri sera volevano tirare su i posti, per no, un attimo, ho detto che arrivano più tardi, perché loro hanno da fare, arriveranno più tardi. Quindi sei l'uomo che ci permette di cenare, ci dobbiamo essere particolarmente grati. Sì. Diciamo che fate parte della mia famiglia intanto. È un onore essere parte della tua famiglia. Qualcuno mi ha detto che tu hai un legame particolare con i ciclisti colombiani. perché per 5 anni sono stato il meccanico della Colombia. E qual è la particolarità di lavorare con ciclisti che vengono dall'altra parte del mondo? No, niente, guarda, i colombiani erano tutti sovvenuti da questa parte del mondo, praticamente ragazzini, erano un po' spaesati, io li ho un po' adottati come figli, ecco. Infatti c'è ancora qualcuno che viene a casa a trovarmi. Ah sì? C'è una camera apposita, Chavez per esempio è uno di quelli, Rodolfo Torres è un altro che veniva a casa mia ogni tanto, quando era qui da solo veniva a casa e stava lì con me. Anzi, mi chiamano ancora quando ci sei che a Natale o gli auguri, ciao papà. Papà? Che loro mi chiamavano papà. E se ci vediamo spesso è sempre un piacere. Diciamo che io ho perso un figlio, per cui io mi affeziono tanto ai ragazzi. Anche questi, ormai sono tutti i miei ragazzi. Li ho adottati. Senti, io ti ho portato una cosa, perché noi col nostro editore di Alvento abbiamo pubblicato un libro sulla storia del ciclismo colombiano, e sapendo che sei una parte del ciclismo colombiano anche tu in qualche modo, sono contento di regalartelo. È pieno di storie dell'ultima generazione, che probabilmente è quella che hai conosciuto anche tu, no? Di Jeffrey Romero, di Chavez, questi erano con me, Jeffrey Romero, Rubiano, erano tutti con me questi qui. Lui se no, Chavez, guarda qui, il mio Chavez. Oh, lui che mi chiama papà e mia moglie la chiama mamma. Voi siete i miei genitori italiani. Ma quanto è stato da voi? Quando si è sposato è venuto a farmi conoscere la sua moglie e è stato 15 giorni qui in Italia, una settimana da me a casa mia e l'altra settimana l'ha passata in Toscana, sempre dove c'è una casina. Gli ho spiegato tutti gli itinerari da fare, da andare a Firenze, piuttosto che tutte le belle città della Toscana, e poi è ritornato a casa e ha fatto 15 giorni in Italia da me. Organizzati da te, sei quindi oltre che meccanico della felicità sei anche organizzatore di viaggi di notte. Gli ho dato le chiavi di casa, arrangiati. Non sarà un caso che Chavez la sua vittoria più grande l'ha fatta a Bergamo a questo punto. No, guarda, Chavez veramente, anche perché è un ragazzo che non puoi non volergli bene. Quando ti fa quei sorrisi è poi veramente bravo. Vi ha insegnato un po' di cucina colombiana anche? No, diciamo che predilige la nostra cucina e è una buona forchetta. Sappiamo che alcuni corridori colombiani tornano in Colombia e fanno la polenta taragna. E magari sì. No, che quando viene su, poi mia moglie è anche bravina a cucinare, per cui sta sempre bene. A star felici, anche lei si prende cura della felicità. Sì, anche lei si prende cura, fa parte di quel pacchetto della felicità, sì. Grazie Emilio e Duilio.